il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Nel corso della nostra trasmissione abbiamo più volte fatto il punto sullo stato dell'agricoltura nel Veneto. Oggi vogliamo riprendere questo argomento con un ospite che ne sa qualcosa, Renzo Aldegheri, presidente di Copagri del Veneto, una delle principali organizzazioni di produttori agricoli. Benvenuto presidente. Buongiorno, buongiorno. Ecco, la prima domanda che le vorrei fare è che cos'è Copagri e che cosa caratterizza la vostra associazione? Intanto Copagri è un'organizzazione professionale agricola, è stata costituita nel 1991 mettendo insieme come coordinamento di altre organizzazioni professionali agricole, l'AIC, l'UCI, l'UGCCIRL e la WILMECWIL, quindi partiamo già da un processo che punta a riorganizzare la rappresentanza del mondo agricolo, quindi questo fa parte un po' il nostro DNA, quindi di saper colloquiare, collaborare, cercare di fare sistema anche con altre organizzazioni agricole. La Copagri è riconosciuta, è presente nel CREL a livello nazionale, ha oltre 300.000 iscritti a livello nazionale. In Veneto rappresenta circa 14.000 iscritti, è presente nel tavolo agroalimentare dal 1995 e dal 2012 è presente nel tavolo verde, che è il principale tavolo di concertazione previsto dalla Regione Veneto. Quindi come le altre organizzazioni, chiaramente anche noi rappresentiamo i nostri produttori, i nostri associati presso i vari uffici regionali, uffici pubblici, verso istituzioni in genere, e inoltre eroghiamo tramite società collegate tutta la serie di servizi che sono tipiche delle organizzazioni agricole, quindi tutto quello che serve. Commissione, tenuta contabilità, paghe, chi più ne ha più ne metta, insomma. Ecco, adesso passiamo alla domanda più difficile: la politica agricola da comunitaria, la PAC, è stata definita. Qual è un po' la vostra posizione e anche il sentore di come viene presa dagli agricoltori veneti? In particolar modo, intanto parliamo del primo pilastro, quello relativo un po' ai pagamenti. Sì. Allora, all'Italia sono stati assegnati 3.902 milioni di euro per l'anno 2015, periodo di programmazione 2014-2020, però il 2014 di fatto è un anno di transizione, quindi l'entrata in vigore effettivo del nuovo sistema sarà dal 2015. Quindi con una riduzione che andrà a rimarcarsi sempre di più negli anni successivi, fino ad arrivare a 3.704 milioni nel 2019, che è il periodo a regime. Ecco, questa riduzione vi preoccupa? Questa riduzione ci preoccupa perché chiaramente quando vengono meno alcune risorse, comunque complessivamente sono circa 200 milioni di euro complessivamente a livello nazionale, vedremo come verranno ripartite questa riduzione anche, che sarà più consistente in percentuale per il Veneto avendo dei titoli elevati. Quello che ci preoccupa della riforma della PAC è che c'è stato uno spacchettamento, cioè prima era prevista una misura unica, adesso sono 7 misure. Allora ci preoccupa la burocrazia, che noi cerchiamo sempre di lottare contro la burocrazia per semplificare le cose, ma chiaramente se invece di una misura ce ne sono 7, è difficile poi semplificare. Ci preoccupa che gli imprenditori che svolgono la stessa attività nello stesso settore dovrebbero avere trattamenti uguali, invece avremo un periodo in cui ci sarà ancora una differenziazione fin troppo marcata. Ci preoccupa che vengano magari lasciati soli i piccoli produttori, che vengano cancellati, perché anche qui c'è questo rischio. Anche su questo, anche noi chiaramente siamo per procedere a una semplificazione. Quando si riducono il numero di domande, sicuramente una semplificazione, però per dare un numero, fino a 1250 euro a livello nazionale ci sono il 65% dei beneficiari, però che portano via solo il 9% delle risorse. Quindi sicuramente non è tagliando a questo livello che si risparmiano molte risorse, si risparmiano burocrazia, e su questo vediamo di alzare eventualmente al limite. Però è a livello più alto che dobbiamo avere la capacità di fare selezione, escludendo chi non vive di agricoltura. Nel regolamento comunitario è previsto che vengano esclusi aeroporti, campi da golf. Probabilmente bisognerà fare un'azione molto più incisiva, escludendo anche chi specula sull'agricoltura, cioè escludendo magari anche chi fa attività finanziaria, escludendo chi di fatto l'attività agricola è molto marginale, non è l'attività prevalente, quindi in modo da sostenere chi opera in agricoltura. Quindi noi sostenere i veri agricoltori e non chi invece vive solo in parte, ecco, di questo. Sì, ci dobbiamo fermare per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Yeah. torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di agricoltura con Renzo Aldegheri, presidente regionale di Copagri del Veneto. Abbiamo parlato di PAC, del primo pilastro, abbiamo visto i problemi, anche il fatto che ci possa essere il rischio, soprattutto per i piccoli agricoltori, di rimanere con poche risorse. Il secondo pilastro invece è quello relativo al PSR, quindi al finanziamenti infrastrutturali per il territorio. Che cosa porterà di nuovo? Qui abbiamo da una parte una notizia positiva, perché su questo pilastro abbiamo qualche risorsa in più rispetto al precedente periodo di programmazione. Per il Veneto avremo una disponibilità di 1 miliardo e 184 milioni circa di risorse, di euro, sì. E quindi questo è sicuramente un fatto importante, di avere davanti un periodo di programmazione di 7 anni con delle risorse che sono certe. La Regione Veneto deve fare lo sforzo comunque di garantire il cofinanziamento, e in questo periodo di programmazione è più elevato rispetto al periodo precedente. Cosa ci aspettiamo dal PSR Veneto? Anche qui ci aspettiamo che non vengano disperse le risorse, che vengano orientate per assicurare competitività alle imprese, per agevolare il ricambio generazionale, quindi aiuto ai giovani, per salvaguardare il territorio. Abbiamo avuto esperienza anche in queste ultime settimane sicuramente di come il territorio deve essere vigilato e con una manutenzione continua. Anche qui evitare che ci sia una burocrazia infinita, perché molto spesso anche nell'ultimo piano di sviluppo rurale alcune imprese hanno evitato di far domanda per l'eccessiva burocrazia, oppure anche per la difficoltà di accedere al credito, perché anche questo è un rischio. L'agricoltura in Veneto sicuramente è ancora attraversata da un grosso processo di ristrutturazione, e quindi c'è ancora bisogno di supportare le imprese per garantirne la competitività e la presenza anche sui mercati anche esteri, perché non ci dimentichiamo che rappresentiamo un'agricoltura che esporta ed è presente soprattutto con alcuni prodotti, quali il vino, in tutto il mondo. Insomma. Certo, ecco, lei ha accennato prima agli fatti di quest'ultimo periodo. Quali sono stati i danni e come si prospetta la nuova stagione agricola anche alla luce del maltempo di queste settimane? Beh, i danni, abbiamo visto tutti che sono state sommerse ampi territori, sia nella zona di Padova, sia nel Bassa Veronese, sia nel Veneziano, e quindi con danni sicuramente diretti per alcune colture, quali quelle degli ortaggi, ma anche in alcuni allevamenti. Su altre dipende molto dalle condizioni del tempo, quali saranno i danni, le ripercussioni anche per i prossimi sull'effettiva produzione, perché chiaramente se non piove più e quindi si vengono asciugati velocemente i suoli, probabilmente qualcosa si riesce a recuperare. Se chiaramente abbiamo anche il frumento eccetera va in asfissia, sicuramente non si avranno produzione. Cosa ci aspettiamo? Aspettiamo sempre che siano eventi straordinari e che nel corso adesso le colture frutticole e viticole sono in un momento di riposo vegetativo. Abbiamo avuto esperienze anche in altre realtà che non hanno avuto grosse ripercussioni poi sulla produzione. Chiaramente dovremo monitorare e dovremo anche cercare di dare un ristorno a quelle aziende che hanno subito danni soprattutto dal punto di vista strutturale, quindi, perché se un conto sono danni che si possono assicurare, altri sono danni come smottamenti o altri che difficilmente sono prevedibili. Poi probabilmente dovremo avere la capacità anche di fare alcuni interventi che prevedendo un po' prima, perché abbiamo visto territori che sono andati sotto, sommersi di acqua. Probabilmente in molti casi era sufficiente prevedere, magari visto i grandi i cambiamenti climatici che ci sono, prevedere anche delle pompe più consistenti per smaltire l'acqua che arriva molto più velocemente e più in quantità superiore che in passato. Ecco, e alcune delle risorse anche previste per l'agricoltura potrebbero andare un po' anche sulla salvaguardia, sulla prevenzione. Certo, certo, perché non dimentichiamo che per esempio il PSR prevede delle misure cosiddette agroambientali, anche le misure del primo pilastro sono aiuti che vanno alle aziende agricole, ma sono previste delle misure chiamate di ecocondizionalità, che vengono date degli aiuti proprio perché anche l'agricoltore faccia una manutenzione del territorio. Ecco, sappiamo che l'agricoltore fosse il primo difensore dei nostri territori. Sì. Purtroppo ci dobbiamo fermare, la devo salutare qui, la ringrazio per l'intervento e ci risentiremo sicuramente per aggiornamenti anche sulle prossimi sviluppi di tutto quello che riguarda la politica agricola. Grazie, grazie a voi, grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. E passiamo adesso alle consuete notizie. Il Parlamento europeo ha bocciato la proposta di regolamento della Commissione per l'etichettatura di carni suine, ovine, caprine e avicole. Gli eurodeputati non vogliono un'etichetta che si limiti a indicare il luogo dove l'animale è stato allevato e macellato, ma chiedono che sia riportato anche l'intero ciclo vitale della carne. Pertanto i parlamentari hanno chiesto di ripresentare il disegno di legge tenendo conto di queste osservazioni. Una tra breve notizia, si parlerà di grandi predatori sabato 8 marzo a Sedico in provincia di Belluno in Villa De Manzoni ai Patte nel corso di una tavola rotonda dal titolo I grandi carnivori ritornano. Una tavola rotonda organizzata dal Comitato Scientifico Veneto e Friulano e Giuliano del Club Alpino Italiano. Orsi, lupi, sciacalli e linci stanno infatti recuperando spazio sull'arco alpino orientale e questo comporta per le popolazioni montane una convivenza con questi animali che dovrà essere il più possibile sostenibile e pacifica. Ultima notizia, alla scuola enologica di Conegliano parte un corso per diventare mastri birrai. Si intitola L'arte di fare la birra ed è organizzato dall'Istituto Cerletti e dall'Associazione OIC. Avrà una durata di 2 mesi, il corso è aperto a tutti e prevede una quota di partecipazione di euro 700. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, 4 elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.